attenzione, il canale 10, c'è qualcuno? Quasi in contemporanea col mio, ma adesso ti trovano lassù. Grazie mille, è probabile. Non so se l'abbia conosciuto a tuo padre, però anche se non l'ho conosciuto, conosco a te e mi dispiace comunque. Vabbè, adesso sta tutto a metabolizzare, dai. Lo so, all'inizio poi non te ne rendi neanche conto perché sei abituato a fare certe cose e lo dai per scontato, poi trovi male la stanza dove c'è la luce o cosa e lo vedi vuoto. Un attimino Luca, scusa, Gianni che chiama, sto facendo una chiamata, mi hanno chiamato, secondo Roberto, ci sei? Roberto, ci sei? Attenzione Roberto. Attenzione Roberto, ci sei? Roberto, ci sei? Attenzione 10. Hola, test radio, 1, 2, 3. Test radio, 1, 2, 3. Circo 10, test radio. Hola. Qualcuno in ascolto per un controllo? Test radio, 1, 2, 3, qualcuno in ascolto? Test radio, caspita, questa non l'avevo mai sentita. Da professionista proprio. Ciao Claudio, buonasera. Ciao, buonasera per ascoltare troppo tanto. sono di passaggio, testa in radio, cosa vuol dire, cosa vuoi sapere? No, so, un mio amico mi ha dato due barattolini che ha recuperato e mi ha chiesto di testarli per vedere se funzionavano. Sì, segnale 9, sai benissimo, io non sono più a Sassari. Sono fuori Sassari, circa 4 km, arrivo di Santiago 9. La radio 5 non te la do perché è un po' bassina, però è abbastanza chiara. Ehi, a Benemeda, qua uno di. È un 40 canali di quelli ultra piatti della Uniden. Pro 510 XL, è un giocattolino. vabbè, comunque l'importante funzioni già poi. Non è un problema quello. Santiago 9 e Radio 4 ti posso dare, però diciamo molto comprensibile, molto chiara, non forte, una radio normalissima. Eia, Benemeda, è entrato Roberto poco fa, ma forse è stato chiamato da qualcuno e niente, vabbè, non c'è problema, dai. No, non l'ho sentito, io ero dall'altra parte, ho lasciato sta radio accesa. E ho sentito a te testa radio, quindi sono entrato a risponderti. Bene, Meda, grazie mille, Claudio, del controllo. Dai, adesso stacco tutto, ti mando, anzi, aspetta che ti faccio anche un piccolo video, così almeno rimane contento. Infatti, se ti ha detto di testarglielo, mandali un video come l'hai testato, va bene, posso dire va bene, segnale buono, non so quanti watt abbia, comunque Santiago 9 non è male qua dove sono io. Eia, vabbè, adesso mi viene male farti vedere mandarti la fotografia. Vabbè, te ne ho giocato lì, dai. Comunque, dai. Sono. Sì, ok, sta girando, dai. Una clip giusta di qualche secondo per fargli vedere che insomma. Che è tutto a posto, dai. E si conferma. Io ti arrivo bene lì da te, sì. Non ti chiedo il segnale, perché magari con la radiolina è un po' così. Comunque ti arrivo bene del radio e segnale, sì, così. Abbastanza, come al solito. Vabbè, c'ha praticamente una scala di 4 LED praticamente. E poi praticamente il display col canale e poi il LED rosso del TX, non altro, è proprio di una semplicità unica. Poi volume squelch, proprio minimalismo allo stato puro. Sì, questi sono i baracchini vintage che però funzionano sempre, io ne ho messo l'armadio un secolo, l'altro giorno l'ho tolto, l'ho acceso, l'airbag funziona sempre. Sempre bello attivo e pimpante, cosa che invece una degli HF mi si è scaricata la batteria a tampone, quindi non manteneva più le memorie, già sostituita e tutto a posto. KK, va bene, sono qua comunque già, se hai bisogno di qualcosa, ok? Ciao Rogero, grazie del controllino, adesso stacco tutto e lo rimetto dentro la scatoletta, dai. Casomai ci si aggiorna o più tardi o prossimamente, ok? Gappa, d'accordo, io sono ancora X e mi allontano dalla radio, se qualcuno dovesse chiamare per qualcosa sono qua. Ciao! Ciao caro, dai, a presto. Ciao a tutti, buonasera. Oi, Chihuahua. Vabbè, Chihuahua, come va? Sta a posto? Meglio di così si muore, tutto a posto, tutto in ordine e si tira avanti, e due. Sai, io mi sono a casa, sulle malattie, ma di vedere una brutta fretta. Sì, già si sente la voce. Vabbè, quella perturbazione che passa lì al QRL invece tu gli erogliosi. Oi, oi, ha preciso, mamma mia. Era già di un buon fretta che non sono riuscito a sentirlo. Io Gianni un profetta con un baracchino che sta provando il suo amico per vedere se funzionava. Già lo senti a Chihuahua, forse si è già allontanato dalla radio. Vabbè, lo senti, mi sta già allontanando anche tu, dai, fai tranquillo che io sono qua. Io sì, mi allontano, io non sono più come prima, su altre cosette che sto facendo e quindi la radio vabbè già accesa, ma già è tutto sotto controllo, dai. Non mi hai mai detto se ti arrivo bene a Polo Tosi, ti arrivo bene da qua, sì. A voglia. Qua mi arrivi, schiaccia un attimo, vabbè la modulazione è sempre chissà, sono 10 con una scatola del califia bife, la colorazione dell'acqua è già prevista. Non si muove, prova, schiaccia. E sì, vabbè, la radio è sempre la matessa, mi ho cambiato posizione, ma la radio è sempre quella, Qui un po' il segnale com'è, se è abbastanza soddisfacente per la zona che sono. Guarda, si apre qui sempre con 7, modulati a 8. Va bene, va bene, non lo vedo io Sassari, quindi ottimamente sì, anche tu sei tra il 7 e l'8, molto molto bene, davvero prima mi arrivavi 9, comunque la zona che sono già ricevo bene, dai, ottimamente bene. Però vai, ci sei proprio trasferito a Monteoro, Luigi? No, già Monteoro, Monteoro c'è il canile di mio genere, già Monteoro. Arrivavo a casa a Roma, arrivavo a Monteoro, a Sassari. Attenzione al canale 10, hai visto dove abitavo prima? Un attimo, ho registrato il becco. Sono 2 chilometri da davvero prima più su. Praticamente verso la zona di Montebianchino, là. Io avevo capito che ti eri trasferito a Monteoro. Vabbè, avanti, mi sembrava già il più lungo, avanti già. Chi? Dai, avanti il becco, volevi entrare. Ammetto, mi sembrava già il più lungo, questo è il più forte della zona di Sassari. Ho scavalcato il torre di controllo. Oh, ciao Robert, buonasera. Ciao. Il torre di controllo non c'è più, Roberta, già detto oramai. È già troppo che tutti mi sentono, mi lascia perdere, però proprio della radio non me ne ha fatto nulla, l'importante è che sia meglio di prima. Meno male, mi sono pensato come ti ho detto io, finire da tutti, pensa a salute, alla serenità, la radio deve essere un divertimento. Comunque buonasera Claudio, buonasera Eugenio, vai Eugenio. Ciao Roberta, vi comincio, sta a posto. Perché? Ma perché ma sì, comunque in casa si dormiva o sempre in un condominio? Spiegami tu cosa c'ho, Robè, signor Eugenio, cosa c'ho? Ci ha fatto una villetta con i soldi della buona uscita delle altre cose, ma no, mi pagano 250.000 euro, adesso si deve fare la piscina. No, vabbè, io queste cose no, a me non interessano, meglio per lui, no, volevo sapere se era casa singola oppure quella da schiera, così, capito? Sto scherzando, Eugenio, naturalmente. No, già abita una posizione bellissima, prima di tutto. A Contusuio, non ha rompimento di scatole, è una casa, lui c'ha un piano e l'altro ne ha un altro, solo questo. Sì, indipendente da tutto, c'è un pezzo di terreno, domina tutta l'altura di Montebianchino, e cosa vuol di più? Lui è in direzione dalla torre, quelle torre che si vede da Tintino, da tutte le parti, su a Montebianchino, lui è in quelle direzioni lì. Ho capito, no, io ero convinto sempre che abitasse a Monteoro, capito? Che mi aveva mandato una foto che c'era la casa in costruzione. Vabbè, la casa già era in costruzione, ma non era Monteoro, era per non far sapere dove sono, oggi lo sono pochissime persone, lo sono Roberto, perché per me è una persona particolare. E qualche un altro proprio di quelli stretti, il resto non lo sa nessuno, capito? Non mi interessa farlo sapere. Un hobby familiare, oggi ho 200 metri quadri di giardino, un hobby familiare, capito? Una bella casa, sto bene, no, non me ne ha fatto più non da nessuno. Ah ok, basta così, perfetto. L'indipendenza, non c'è da fare, va bene così, perfetto, andiamo. Gappa, che sono in una semifallata, capito? E se fossi 50 metri più avanti, allora mi sentivi come prima, anzi forse anche più forte perché è più alta come zona. Circa 400 metri, 360, 380, avevo misurato con Roberto. E beh, Bobo Viri, niente novità di quella roba là, nessun'altra telefonata? No, lo chiamiamo l'altra settimana, lo chiamo la settimana prossima, lasciamo calmare un pochettino il vino in fresco. Comunque, mi pare che tu quando ho chiamato dice che non si è acciarato, adesso lo chiamo io e vediamo un pochettino con una scusa. No, sto parlando con Luca, là, di quel PC tuo famoso, che dice che all'epoca funzionava quella roba lì, perché adesso ne ho trovato uno qua di Sassari, ne vuole un pochettino, ma poi alla fine ha messo l'inserzione che c'aveva delle prestazioni e non è quello. Ah no, non è quello, quello è di mio fratello, quello non è. Ma cosa scrivi tu? Una cosa e non è quella. E poi Luca, se c'è quello di Claudio, eventualmente ti metti d'accordo con lui e vediamo, poi gli facciamo una valutazione, un aggiornamento e vediamo un pochettino. Se lo vuoi vendere, dimmi tutto, cosa ne vuoi, ci mettiamo d'accordo. Ah, vabbè, a me parlare con te di vendita, già lo sai che mi fai cazzare. Io te lo posso anche dare quello, te lo vedi, un Lenovo, ma a me me l'ha fatto avere Luca, va recettato, riformattato, perché chiaramente c'è roba che avevo messo io, niente di particolare, ma comunque Luca già se la mette le mani. Quello è nuovo, guarda che una scheggia col telefono, quel computer, capito? Poi se ti serve monitor, tastiera, su tutto. Dai, già ne parliamo domani al limite, ok. Riaccomi. Sì, ok, avanti Gianni, scusa, poco fa mi hanno chiamato, ho chiamato io al telefono, dai. Ok, avanti a te Gianni. Ehi, no, vabbè, l'ho smontata l'altra radiolina che ho testato, vabbè, già c'era Claudio, mi ha dato un controllo, dai. Comunque, pare che funzioni, e quindi l'ho staccata e ho ricollegato la mia. C'è molta differenza? Ehi, a voglia, ciao già. Adesso è la notte, sei più di 9 adesso e la radio è una bomba. Bene Meda, ciao genio, buonasera. Guarda, un salutone collettivo, non so che ci sia comunque. Ben sentiti tutti quanti, dai. Già, ma allora come fa? Sto a posto. Già lo sai, no? Quindi stiamo qua che stiamo piano piano ci stiamo riprendendo, dai. Come ti capisco, va bene. Lo so. Cosa è successo già? Il babbo di Gianni è morto poco dopo di mio padre. No, sono sapevo. C'è stato qualcuno che mi abbia informato, cazzo. Condoglianze già, mi dispiace davvero, purtroppo, però quando arrivano, non è che avvisa. Ti ringrazio, E quindi adesso, è tosta, dai, bisogna reggere il colpo e andare avanti, dai. Lo so, fatti forte, vai avanti, purtroppo sono cose che possono succedere all'improvviso. Non se c'è all'improvviso, purtroppo è così, vabbè, cambiamo discorso, comunque ti faccio le mie più sentite condoglianze, io non sapevo niente, altrimenti magari te l'avrei fatte prima, avanti Roberto. Sì, però Gianni, sto guardando il tuo segnale, cioè o stai toccando qualcosa, sale e scende. Qua sicuramente ho il PTT, visto che non lo stavo usando da un po', magari come si dice? Magari è sporco il PTT, boh, qua allo strumentino mi dice che è tutto regolare, boh. No, adesso è tutto a posto, anche la radio va bene, quei picchi arrivano 9:20, radio solita tua, potente e pulita. Avanti l'amico carissimo di Porto Torres. Così mi fai diventare rosso, robe. Già, ce l'hai sempre quel portatile, sì. Affermativo, ti so che ancora esistendi. Non me lo dare, che io ce l'ho sempre qua, quel baracchino. Me lo dai, mi serve. E devo attassare, arrivo apparato, ma lo devo ricordare, dai, non lo dare. Non ti preoccupare, è qua custodito gelosamente, dai, non ti buoni problemi. Quindi quando vuoi mi avvisi prima, mi fai un fischio e diventerà tuo. Ehi, va bene, d'accordo, riprendi robe. Una domanda a Gianni, l'antenna tua è possibile che si veda la Corso Trinità in una di quelle viuzze, scendendo in Corso Trinità sulla sinistra? Robè, io non sono in Corso Trinità però, io sono in Corso Vico. Sì, lo so, però io scendendo di quel percorso Trinità andando verso Porto Torres, nella parte bassa di Corso Trinità, proprio quasi alla fine, per arrivare alla direzione del Corso Vico, sulla sinistra si vede un'antenna. Se tu arrivi all'incrocio con via Safi, chissà. Sì, quando arrivi all'incrocio di Cavalcavia, diciamo, se tu guardi a sinistra, sì, in lontananza si dovrebbe vedere, sopra un palazzo marrone, dai. Probabilmente quella lì che ho visto dall'antenna tua, che risulta più o meno all'altezza della stazione, dai. Positivo, è un po' che ne ti ho bigiata, le ultime folate di vento mi bigiata, devo salire a sistemarla, dai. Oppure comprare un altro tondino di alluminio un po' più robusto, perché l'ho già sistemata 2-3 volte e ogni tanto si bigia. E io piazza di un tralicio di 25 metri e fai danno. Io intanto la sono soddisfatto, Io ho passato una droga d'aria qualche tempo fa, si è piegato. sbagliata tantissimo, ma no, non la civiltà è perfetta. Le ultime parole fa voce. Che antenna c'è tu, Eugen? L'antenna di Ricchioni, la Gay Master. Allora sta andando bene, considerando che si ha portato le 9 più 5 arrivi qua. Facciamo entrare al carissimo amico della parte alta di Sassari, avanti Claudio. Sì, la parte alta era, anche questa già è alta, ma siamo diventati bassi. Io oggi ho la Mantova e la J-Pol, che ci siamo in busciacchera alla Game Master. Un'antenna da 8 metri e 50 alta in alluminio, sono due antenne accoppiate praticamente, quasi, perché una è un pezzo 8 metri e 50, l'altra che è a fianco 2 metri e 50, ma è una bomba. Ho provato a commutare, allora mi arrivi 8 con picchi positivi con la J-Pol e 6 e mezzo con picchi positivi a 7 con la Mantova, è una cosa spaventosa, Roberto, antenna, veramente. Già l'ho notato, anche il segnale tuo poi cambia, e siamo abbastanza vicini. Sì, ma la mia è molto sbarazzina, capito? È un'antenna così passata velocemente, senza radiare, senza niente. Lo sai, no, io ho un dipolo in verticale. Però mi fa bene, cioè va bene, funziona bene. E chi c'è la sbarazzina è un'antenna, ma anche questa non è a radiali, eh. Se tu vai a vedere Smartec, della Smartec, e digiti J-Pol 27 MHz della Smartec, guarda a vedere come è fatta, è una bella antenna, veramente. Costa un po' di più della Game Master, però è fatta diversamente, no? Non è sbarazzina, è fatta veramente molto molto bene, Roberto già l'ha vista. E poi è 7 ottavi, non è 5 ottavi, è 7 ottavi. Capito? È una bestia, molto bella. Me l'hanno mandata per provare, ho preso la come si dice, ho detto volevo in fretta, è diventato ufficialmente, come si dice, vabbè, non me la metto più, comunque la vende lui e me l'ha mandata per provare, un tecnico che ripara le radio, concessionario di questa Smartex. Metto tre mando, una la provi, la piazzi, mi fai un filmato, così la metto su YouTube e mi pare ci sia il filmato che ho fatto io. La puoi montare anche 2 metri da terra, fate il conto, proprio la puoi mettere in una base in terra e tirare su, tranquillo. Io l'ho messa a circa 4-5 metri dal muro della recinzione della piazza. E va veramente bene. Avanti, genio. Ma ci vuole palo grosso, ci vuole. Palo grosso, oddio, io i pali, io ho sempre curato la qualificazione, non è che sono stato lì, io c'ho il piantone che è attaccato al muro è da 60, ok, da 60, poi c'è il 55, il 50 e il 45, quindi sono pali veramente molto molto grossi, le staffe sono tassellate con tasselli da 14, mi pare da 14, ma la tua punta, vabbè, da 14 o da 16, se non mi ricordo, la qualificazione è molto importante, non ha tiranti, non ha niente, il vento piega gli ultimi due elementi, un pochino, come fa la Mantova, il resto è bello fissa perché essendo doppia tiene molto, molto raffica il vento, è molto più stabile, più custodita anche dalla parte del piantone, capito oggi? Vabbè, io sono un po' male quando si romperà questa, vedo di cambiarne una un po' più seria, però per il momento è perfetta sta qua. Già mi riprendi, io non sento male. Giusto qualche altro passaggio e poi vi lascio, dai. Non so se da te, Eugenio, il mio segnale è cambiato, vabbè, adesso ho rimesso la radio mia. Dimmi un po' come arriva la mia modulazione. Oh, tu vabbè, qua sei da 4 passi a 5 tranquillamente. Capito? Da 4 passi a 5. Invece prima quando ti ho ascoltato con la radiolina eri a 3, fisso. Bene Meda, dai. Facciamo la palla a Roberto, dai. mi adesso un'informazione a cosa? A Gianni ti volevo dare l'exit tua stazione TV, chiude le trasmissioni, ossia dopo 30 anni chiudono completamente il digitale e trasmetteranno solo via internet, per cui quella frequenza adesso sarà molto appetita. Lo so, mi è arrivata all'orecchio la notizia qualche giorno fa di un ex collega che ci lavorava e quindi tu me la stai confermando un bel di navi buoni. Gianluca, adesso gestire una cosa del genere, tutte le spese di energia, manutenzione, ponti, eccetera, eccetera. Infatti non ho mai capito come fanno a sopravvivere queste televisioni di quartiere, chiamiamole, neanche di provincia, di quartiere, perché se ti sputi la sassari poi non le prendi più. Ok, di nuovo a torre di controllo a te il mic. No, non c'è più la torre di controllo, è caduta, oramai. Siamo solo uccello rapace, nostro sparviero, basta. Arrivi bene Eugenio, arrivi veramente molto bene, bella la radio, corposa, veramente molto bene, picchi positivi, Eugenio non le va a vedere, Eugenio con quella radio sei 9 più 5 oggi, io non sono vicino, sono abbastanza distante da te, capite, poi non vedo Sassari, ripeto, non vedo Sassari, l'antenna che è alta nel senso la posizione, però Sassari io da casa mia non lo vedo, perché c'è la collinetta, sono appena nella vallata, bastavano 50 metri più in alto, però non potevo fare niente lì, il terreno era questo, vai vabbè. Ebbene, non poggiamo la Massimiliano Bulldozer, con l'escavatore te ne fa buttare una quarantina di metri di collinetta. Magari, abbassare lì fino ad arrivare al centro ecologico, così vedrei Sassari molto bene, ma ti ripeto, stavo ascoltando l'altro giorno alle 40, arriva molto bene anche la parte di Olbia, la parte di Oschi, di Ozieri, Budusò, Patada, arrivano bene tutti, quindi non mi posso lamentare. L'importante è che sento, perché se non sentivo allora dovevo prendere provvedimenti, allora scavatore e traliccio nel giardino, di quelli da 20 metri, 25 metri, con solo la manta va sopra, niente di che, invece grazie a Dio ricevo bene, trasmetto bene, quindi non me ne fotti nulla. Vai Gianni, riprendi, genio, riprendi tu. No ragazzi, dai, io non ce la faccio più, sto da con i carmi. Mi sto girando, c'è una cosa di un po' anche la febbre alta. Insomma, fisica di più va, mamma mia. Ragazzi, sentitevi tutti salutati, io sto chiudendo, mi sto sdraiando. Ciao a tutti, magari a domani, ci sentiamo domani, ok? Ciao Eugenio, un abbraccio grande, buona guarigione e buon tutto, vai vabbè. Ma perché lo lasciare Eugenio? Influenzato. Ah, non lo so, non mi dispiace Eugenio. Ma ti sentivo la voce un po' muscia, non pensavo. Ok, buona guarigione, buon tutto, dai, riprenditi presto e ritorna in forma, come ti conosciamo sempre. Ciao ciao. Deia, ciao, buona serata a tutti, ciao ciao. Ciao Eugenio, salutami a Chihuahua. Deia, ci sentiamo, ciao. Ciao Eugenio, ciao. Gianni lo vuole fare. Ciao genio, dai, vecchia quercia, ripigliati subito, che dobbiamo pedalare forte. Avanti Roberto. Tanto Gianni Bigliabocco di freddo giù a Porto Torre, si prende tutto il caldo e tutto il freddo. Anche io sono un po' così, lo sto scendendo nell'officina in magliettina leggera, però bisogna tapparsi. Stamattina ho preso un po' di acqua, non tanta, con la pioggerellina, però mi ha bagnato il cuoio capelluto e qualche freddellino, qualcosa di freschetto l'ho preso. Ah, mi sono messa leggera, c'è un po' di sapore tutto il giorno con questa pioggerellina leggera dal primo pomeriggio, capito? Adesso ha smesso, però dice che stanotte inizia di nuovo. Tanto da una rete prendi in Sicilia, Gesù Maria Gara, cosa sta facendo di danno? Che l'ho visto, cacchio, stanno aspettando, il piccolo farà stanotte, Siracusa, Ragusa e Catania, c'è quell'uragano, c'è proprio l'immagine, tipo come quando le fanno vedere in America, quando vengono a Florida, quelle cose lì, quegli uragani, cacchio, spaventoso, dice, il mare burrasca forte, onde di oltre 8 metri, sono tante onde di oltre 8 metri, e poi venti superiori ai 120-130 km. Ti trovate Gianni. Ehi, dai, prendo la palla al basso e anche io, dai, faccio QRT. Niente, dai, vi saluto, ci aggiorniamo prossimamente, dai, grazie della piccola chiacchierata e dei controllini. Bene, Meda, dai, un salutone a Claudio, Genio, l'ho salutato poco fa, salutoni a te e tutti gli eventuali ascoltoni all'ascolto. Ciao, Gia, un abbraccio grande, noi prendi presto, e piacere mi fa, se ogni tanto ti fai sentire. Vai, Roberto. Ehi, ciao, buon tutto, riprenditi come ha detto Claudio, ci sto passando anche io, per cui siamo tutti e due nelle stesse quasi identiche situazioni, a parte i giorni, uno un po' prima, l'altro subito dopo, però bisogna andare avanti, purtroppo così è il ciclo della vita. Ciao ciao. Ah, attenzione, Breco su Gargamella. Attenzione Gargamella, se ne ascolti qua, che adesso Lucia Maccia. Adesso c'è Maccia. A te cos'è? Rispacciato. Aspetta, faccio salutare da Gianni se c'è ancora. Oh, Luca, facci sì. Ega, ciao Luca, buonasera anche a te. Dai, io stacco definitivamente, dai. Salutoni a tutti quanti e a presto. Ok, buona serata, ciao ciao. Ciao Gianni, salutoni, alla prossima, ciao. Ciao Roberto, ciao Claudio, poi chi c'è? Avanti, ripeti tu, Roberto. Ehi, ci siamo io e Claudio, c'era poco fa Eugenio da Porto Torres, non so se altri stanno ascoltando, ma l'ho sentito a Gianfranco oggi, normalmente la sera a quest'ora è sempre in radio, vediamo, facciamo una chiamata se c'è, o se no riprendi tu Claudio, avanti Gianfranco, punta, vai tu Claudio. No, la verità non l'ho sentito neanche io Gianfranco, non lo so, forse è impegnato, non lo so, l'ho pagato. Aspetta che mi stanno suonando il campanello, che il mio vicino mi deve portare i papacì. Papacì, che ha capito il periodo dei papacì, lo sai, me sono dimenticato. Sempre io c'avevo gli amici pazzici, adesso non ci stiamo più frequentando, nel periodo dei santi e dei muti, ne vai dare in bocca, ne portavano a vassugli. A te piace Luca, il papacì. Che avanti che vuole entrare? Non ho capito chi sei, avanti. Non ti sento, sei in mezzo al QRM. Segnale sì, radio zero. Guarda, se riesci a fare qualcosa per farti sentire, non riesco a capire quello che dici. Attenzione, canale 10. Che è? Aspetta, Bobo, che rientro subito, e saluto il mio vicino. Ehi, ok. Avanti, ti vuole entrare. E me, ci siete? Sì, ci sono, sento ogni tanto un colpo di portante, non si capisce chi è, se vuole entrare. E là, sono stato di tra, saluta Gio Maria. Attore, adesso tra un po', qualche minuto, vediamo un po' cosa si c'è stanotte, mi sa che faccio un paio di toast. Già sono buoni toast, già li mangio abbastanza, non dico spesso, ma tante volte capita. Sì, roba veloce, mi roba, metti la panna di maionese, non fate di prosciutto, li chiudi, li metti nella tostiera, qualche minuto, un paio di morsi, ciao. No, maionese, non è che non mi piace, però mi fa coso di stomaco, un mal di stomaco, preferisco non mettere niente. Già il ketchup, adesso starei andando a rompermi le scatole, perché mi aggiunge nei panini, secondo quanto ne mangi, ti senti la notte un po' di ribollire. Stavo dicendo che Claudio forse stava portando i papacini, a te piacciono i papacini a te tu? Sì, buona ridiso, con le mandorle, però vabbè. A me non piace quando mettono condimenti strani in mezzo, tipo, vabbè, ci mettono il finocchietto in mezzo, semi di finocchietto. Qua mi piace a me con le mandorle, con le noci e l'uva passa, così sì. Ma quelli di taglia piccolina, almeno sai che li fa buoni, quelli di pasticceria che c'è in Via Nuzio Cervi, carissimi amici miei, quelli si caccherano troppo buoni, di taglia piccolina, non di quelli di sardi che sono grossi grossi, sono buoni sempre, però quelli lì che fa lui sono spettacolari, tagliati tipo, fatto due dita affiancate, non di più, due dita piccole, lunghi 7 cm, ma sono troppo buoni, con la cappa sopra, il coso, e l'uvetta di quella di qualità. Ma aspetta, Via Cervi, ma da Mura? No, Murizzo. Ah, Murizzo, sono da buoni? Buoni, di più, sono numero uno, io sono tutti parenti, amici, mio cognato è sempre di quella famiglia lì, adesso sono via Pascoli però sui papassini come loro, non dico adesso perché sono molto non li compro, ma erano famosi a salsa di loro per i papassini. Sono rientrato. Ho capito. Ho capito, vabbè, ma comunque secondo me i migliori sono fatti, sono buonissimi fatti in casa, e li fa buoni, si chiama Falda, una abita vicino a casa, vabbè, adesso da tanti anni non le fa, perlomeno meno prima ce li dava, così assaggiare, ma buoni robe, senza K e con la K, però metteva, come ti ho detto, noci, le noci le faceva tostare con le mandorle, ma cavolo, noi perdiamo un sacco, fa veramente buoni. E così ti fa il mio vicino, 40 anni era con Vanali, pasticcere, hai già fatto papacini. Ha voglia. Adio, do culo. E se non è bravo a vedere la pizza, di tutto mi porta la verità, mi hai lasciato il campanello, ho sentito il no. Ha fatto te i casi galli, via. Ci sali da bignare a voi, c'è un bel film, guardo il film, due bagaccine. E vamo già alla playa, dove c'è a casa tua? No, io la marina, e dove si sente poi il... Ma aspetta, ma che cazzo posso fare per... Ho abbassato anche l'alimentatore, l'ho messa a 13,5 mi sa. A vento, si sente troppo, cavolo, ma non si può fare qualcosa, non si può fare niente. Ma ve l'avevo detto a Giulio, Giulio l'ha fatto, ci vuole una resistenza, ok? Adesso però io non mi ricordo da quanto è una resistenza, deve mettere nella, in mezzo il positivo, l'attacco della ventola, e rallenta la velocità, gira sempre bene, però rallenta la velocità e non senti più il rumore. Sì, l'ha detto anche a me Giulio, però non mi ricordo da quanto era la sta resistenza. No, mi ricordo. E adesso me lo riporto di nuovo a casa e me lo faccio, va. Perché qua, senti, adesso è staccata, senti. No, tu c'è un aereo. Ecco, siccome tu c'hai anche l'interruttore, ok, quando le metti la resistenza tu vedrai che l'interruttore non lo usi, perché il mio lo senti. Il mio è silenziosissimo e gira benissimo, anche quello lì c'ha l'interruttore con la resistenza. Ma tu è quello di cinese lo stesso? No, il mio è un Proxel da 60 A, però era molto rumoroso la ventola. E allora un amico, non io, un amico mi ha fatto quel lavoro, siccome c'è già l'interruttore per essere più lento e più veloce. Adesso ce l'ho ad alta velocità, però silenziosissima, perché altrimenti funzionava uscire mentre la doia. Fasi un bel casino. No, perché se rimando a Santiago Nove, capito? Arriva un bel forte anche da Marina. Ehi, ehi. Adesso vediamo, là. Siamo un riporto a casa. Ne ho resistenze, però non conosco i valori. Vabbè, adesso voglio andare a gancio. Vabbè, se lo metto nel nero fa niente. No, non fa niente, basta gliela metti in mezzo. No, ma magari ne hai qualcuna che va bene. Gliela accendi la ventola, gliela punti con i due filamenti che c'ha la resistenza, quelle grandi. Io ce l'avevo una, certo, non so dove l'ho messa, perché di quelle grandi, capito, è gialla, verde, rossa, non me ne metto più, vabbè, diciamo che l'avrei fatta io direttamente, così non sbagli. Me ne avevo preso due e una me l'avevo messa da parte, non so dove l'ho messa, però se la trovo, però Giulio lo sa, perché lui i valori li conosce, quindi gliel'ha messa e ha detto che è Renato l'ha rimettato. Oh, mi ha rotto un attimino, ci sentiamo tra poco. E già, parlando, mi ha già mangiato due bagassini. Due bagassini? E allora? E il classo vediamo, da. Me lo riporto a casa, però oggi, vabbè, domani non ce la faccio. Tu pensa, guarda, adesso ti metterai a ridere, mi scommetti che ti metti a ridere. Perché cosa è successo? Poi ti dico una cosa di quel computer che lo do a Roberto, tanto io qua non c'ho linea, non c'ho niente, lo do a lui. Però io devi riformattare, devi bugarne tutto mio. Vabbè che già l'hai fatto tu, non è che c'è niente di particolare dentro, però va riformattato, eh. E io ti occupo già Marangiureo. Mi devo alzare alle 4 del mattino, qua ti vuole arrivare, su così lui ti vuole arrivare. Ti devo andare dal barbiere alle 5:15, domani mattina. Yes. Ma da Piero? No, dal cugino di Marina, tutto pieno, quello lavora un bel. Ma ti ho detto, non c'è un buco, nulla, guarda, se tu vedi domani mattina alle 5:15 devi essere qua, perché a meno 10 apro, se sei lì arrivi sei il primo, altrimenti non c'è né posta, né per domani, né qualsiasi, non c'è un buco, niente, manco sabato, e c'è i capelli messi male. Sono rientrato io. E io, vabbè, no, io non aggiungo più, c'è un problema. Non aggiungo, c'ho la macchinetta, mi ha regalato mia figlia. Noi andiamo avanti allo specchio, recupero una spazzolata e vamo già alla playa. Intanto andare al barbiere non la serve. Non la giubilo. Pagato, buono, buono, sì, il mio vicino di casa, 40 anni da Vanali, come pasticcere, era bravissimo, e poi ha fatto gli ultimi 5-6 anni addirittura pizzaiolo, lì alla terrazza in Piazza dei Siti, quindi è bravissimo, intanto organizziamo qualcosa, cioè mi ha fatto il papacino, me l'aveva detto stasera, quindi un profumino di droge, non ti preoccupare, ti accendo dopo, e si è subito a portare un bel vassoio, vai Roberto. No, beh, sembra con i papassini, i tiricche, queste cose sono fissate. E quindi conosci a Barbara, Cla? A Barbara? Non abitava sopra di me a Carbonati, io che la conosco. No, ma quella ragazza, vecchia, c'è una bella ragazza, modella e tutto, proprio una ragazza che si era solo questa lavorando adesso. No, io ero rimasto, avevo fatto anche una presentazione a casa, gli avevo fatto fare un paio di volte delle macchine del caffè, poi so che stavo lavorando in un'agenzia, non so di che cosa, adesso non è. Adesso sta lavorando da cosa? Forse già la conosce pure Luca, adesso da Saverio, come si chiama? Arte Obelix. Ah, buono, buono, buono, non sapevo. No, una bravissima ragazza, bravissima, bravissima. Bravissima, quando è arrivata lì a Carbonati, io praticamente ero secondo lì all'ottavo piano, era appena nato il figlio, capito, poverino, è autistico quel bambino, ma santo, è bravo. Già lo so, mi ha raccontato tutta la storia, ci conosciamo bene e poi con me c'è un bel rapporto, nel senso viene sempre a cercare a me in officina, mi faccio molte volte non neanche la faccio pagare, poverina, una grandissima lavoratrice, una che si dà da fare un bel, poi è sveglia, la ragazza pur essendo giovane, molto sveglia, nel senso matura. Vai Luca si è allontanato, dice che sta portando pizze, Non deve fare. Un po' brisetta in macchina, era nuova quella appunto, mi avevo fatto prendere una Y10, una Lancia Y cosa era, ma se l'ha mangiata, tutta scuta, poi gli avevano dato una Peugeot, non so se l'avevi vista, tipo quella che è venuta stamattina che stava addrizzando al fianchetto, e ha lampato un paro, adesso quella appunto, la nuova, hai visto che è stata graffiata da fino ai colpi, ma quando ti capita roba bella una passata di cose la puoi fare, cazzone, metto una multa, non si vede niente. Così leggera, una passata di pasta abrasiva giusto per toglierle quel giallo. C'è stata la padella piazzata male, cacchio era tutta canta, dice mi lampeggiano perché ha abbagliato, per forza c'è una padella al contrario, ma tutta la luce è girata male, infatti gli ho detto, ma ho detto, è inutile che ci mettiamo a fare questi fari, già te li busco io due fari, quando capita roba di assicurazione perché se la vuole vedere, li consuma più olio che benzina con la macchina, è un piccolo, è sempre stata sfortunata quella lì con le macchine, non so se ti ricordi quando c'aveva la Mega, la Scenic, quella vecchia che tutti le dinari che ha preso, l'ha speso con la macchina, poi la Y, tutte da me sono passate queste macchine, solo poi mi ha portato, sono andate a vederne una, però lei è troppo frettolosa, molte volte dico aspetta prima di comprare, è zitta, adesso questa qua, tu devi vedere quando l'ha presa cosa era, un ammasso di schifezza tutta sporca, pinghinosa, e l'ha pagata un bel pure, le ho detto aspetta un attimo, poi lei ogni tanto si chiude un colpo. Ma c'è una volta glielo messo in moto io, che non partiva, è Brigitta, perché ci ha lasciato le luci accese, luce in posizione accese e la luce di dentro accesa. C'è voi cavetti, mi ha citofonato, mi ha detto Claudio, la macchina non parte, aspetta scendendo. E gliel'ho messo in moto io. E già lo so, si lascia lì che si era rotto il parabrezza, già lo so. È un po' sfortunata, è comunque una bravissima ragazza. Hai visto la ti ha risposto stamattina. Ancora tanti flare quello, e nel mio palazzo non ce ne sono altri che non mi devo fidare, non di Claudio. Ah, infatti poi gli ho fatto la battuta, ho detto, ti ha apprezzato bene, assolutamente. Poi una ragazza, ti ripeto, una ragazza molto generosa, altre volte dicono, oggi gli ho detto, guarda non mi fai arrabbiare, mi sta parlando i soldi a fuori, detto, non me ne dare e non ne voglio, se no tu ogni volta, detto, ma quando ti posso aiutare, nel senso che non mi costa niente, certo se ci devo mettere materiale, un altro disco, se non ne approfitti, lei ho visto non ne approfitti, perché poi ci sono i fighetti che vengono approfittando, non mi vado pagare, no, chi se no, quelli sbagliano, e quelli poi glielo dico e li faccio pagare, dico, una volta può capitare, però la abitudine a una cosa. Lei invece è sempre tranquilla, non c'è mai, infatti quando deve fare qualcosa che sempre consiglia a me, c'è il mio numero personale, mi chiama lei, infatti oggi mi ha chiamato se poteva venire, ha detto vieni, non ti preoccupare. E così quasi ne con me con quel telefono, ne approfitto una volta, due volte, e alla fine devo dire, guarda, non lo sto più facendo perché mi si è rotto lo strumento e non posso fare questo tipo di lavoro. Comunque lo fanno anche con me. Già lo so, conta tanto e anche con Fabrizio, amico nostro, lo stesso. E tanto c'è Fabrizio, già le fa Fabrizio, anche così la comunità d'Andoia. E vabbè, si sa che Fabrizio non vuole mai nulla, comunque alla fine. Va bene, dai, no, bisogna approfittarsene delle persone, comunque c'è gente che se ne approfitta. Come con i telefoni un bel. Vabbè, allora io sono sempre lì a romperti le palle, non ci vengo più. Ah, vabbè. Ah, metta, diciamo, pensavo se stessi dicendo a Luca. No, Luca. Luca com'è? C'ha quel vizio lo stesso. Sì. Bessati. Già gli metto in tasca io i soldi, Luca è una persona che con chi merita è così, come sei tu, non c'è niente da fare, però con chi hai un certo rapporto va bene, anch'io sono così, dammi quello, dammi quell'altro, me la futti nulla, lo do, ma secondo che non ne ho, mi capite? Assolutamente. Ascolta Luca, quindi cosa faccio? Lo do a Roberto e poi come fai tu? Devi passare a prendertelo, te lo porta a Roberto per riformattarlo. Roberto si deve fare un salto, me lo porta un sabato mattina, se ce la fa, e io tra domenica e lunedì è già fatto il PC. Lo smonto tutto, pulisco l'avvento, ricambio la pasta di raffreddamento, poi faccio la formattazione e reinstallo Windows 10. Ascolta, allora, perché nel Carveglia c'è la turbina di bivolo, comunque lo pulisco, poi te arrangi tu. Allora, facciamo una cosa, sabato te lo porto io, capito? Sabato te lo porto io, perché intanto tu prima non ci sei. Sabato te lo porto io, sabato mattina ci prendiamo un caffè, poi ti arrangi con Roberto. Da quel momento in poi io non voglio sapere più nulla. Eia, non c'è problema, va bene, anche sabato va bene, sì. Basta che non vieni tardi però, Cla, perché io poi andrò via dal monte verso mezzogiorno, così, massimo mezzogiorno e un quarto, e poi devo scendere qua, niente, a preparare dalla Marina a preparare il pranzo. Come ho chiesto non fa lì, ma è meglio che do la mano io. Sì, rimaniamo d'accordo così, portamolo tu e poi io me lo smonto tutto. Comunque Roberto glielo avevo detto che quello è un signor computer, quello è un Lenovo. No, è un Lenovo ed è nuovo, lo lascerà più trattato io. Quindi a Roberto non ce n'è problema. Non l'ho più assoluto, hai capito Roberto? Io lo do a Luca e poi tu te reggi con Luca, nel senso che appena è pronto devi andare a prendertelo, o magari lo so, non mettete d'accordo. Io comunque lo do a Luca, in modo che lui lo sistemi e poi te lo dà. Tu, a mezzogiorno, io esco, quando vado a lasciarsela a fare spesa o a prendermi il caffè e le sigarette, io esco all'ultimo esame, di nuovo, adesso vabbè, questi giorni c'è freddo, quindi non sto andando più in moto, esco più tardi, però già ho la macchina, non c'è problema. Ci aggiorniamo telefonicamente. Ok Robè, quindi computer ce l'hai, lo do a Luca e poi te reggi con Luca. Ehi, grazie, poi già ci mettiamo d'accordo, no? Ok, Luca, la cosa, Lupo cacciava il dubbio se si poteva aumentare la RAM, ti ricordi tu qua? Io compro fan il computer, io non li comprendo un accidente, cioè me l'ha fatto Luca quello. Con lui devi parlare, quello me l'ha fatto avere lui, so che è un buonissimo computer, quindi non lo so, lui, senti a Roberto, parla con Roberto, che io non comprendo nulla. Allora, glielo stavo già spiegando io, se ha due slot e ha già due banchi di RAM da 2 giga non si può aumentare, come fai? Invece se ha più slot si può aggiungere un altro banco di giga, da 2 e diventa 6 giga. Comunque vabbè, dai, lascialo così per il momento, tanto per come serve a te ce n'è per i porci, guarda quel PC girava benissimo, solo che c'è da dire questo, mettendoci sotto Windows 10 è un casino, perché, oddio, un casino no, però è più pesante di Windows 7, è come Windows 7 e XP, con un giga di RAM girava XP, invece con un giga di RAM gira sì Windows 7, ma non bene. Comunque dai, lascia fare a me, poi nel caso vediamo un po' cosa riusciamo a fare, dai, io questo passaggio vi saluto e vado a cenare, che Maria sta già cenando, ciao, ciao, ci vediamo sabato, ciao. ti prendo io, sei tu. Grazie per il momento, poi già ci arrangiamo noi. Ok, e anche io tra poco vado, sto aspettando che mi chiamino. Buona cena e buon tutto, vai classe. Beh, se no stavo affogando col trapassino. No, non ci dobbiamo arrangiare niente, noi glielo sai. Io lo do a Luca, lui te lo fa la formattazione, ti piazza tutto, poi ti arrangi con lui a me. Non mi indica, glielo sai. Va bene, dai, anch'io chiudo, che ogni tanto vado in cucina a assaggiare qualcosa. Vi saluto, buona cena a tutti, vabbè, se coincide ci vediamo domani, ok? Ok, c'è la partita, mi se ti interessa, Napoli-Bologna o Bologna-Napoli, alle 9:15. No, bene, bene, bene. Ok, diamo un'occhiata qui, perché c'è l'ultima puntata di un bel film con Bocci, che lo stavo seguendo, bellissimo, voglio vedere come finisce. Sì, vabbè, anche io voglio mangiare. Dai, ciao Claudio, ci sentiamo se coincide domani, se no quando sarà. Buon tutto e saluto anche eventuali qua amici su canale 10. Ciao ciao a tutti, corretti. Ciao Robè, non chiede niente a nessuno, che il computer ce l'abbiamo, ok, ecco a casa, domani mattina lo pulisco già e poi lo porto da Luca. Ciao. Sì, ciao, grazie per il momento. Sì, ciao ciao. Ciao Lucarie. Attenzione, canale 10, canale 10, c'è qualcuno, K, che è avanti? Oh, buonasera Ghero, K, non è male, non è male, dai. Stasera a voi ti sento un po' in mezzo al QRM, come ti arrivo lì? K, prova come arrivo. Oh, 1, 2, 3, prova. Anche tu ti sento un po' di fruscio, però già va bene. Quante watt stai utilizzando? Se utilizzassi un po' di più ti sentirei un po' meglio, ma comunque già va bene, dai. K io faccio un altro paio di passaggi e poi ti lascio, perché devo fare una cosa. Comunque già ti sento, non è entrato nessuno stasera. K, no, già va bene, già, è perfetto. Ok, adesso ti devo lasciare, ti devo, che io devo fare roba. Ce la risentiamo, dai, alle prossime. K, ciao ciao.